24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'attesissimo referendum irlandese sul Fiscal Compact. Ieri a tarda sera si sono chiuse le urne, oggi saranno invece annunciati i risultati. Il governatore di Banca Italia Ignazio Visco e il presidente della BCE Mario Draghi spronano l'Europa verso una maggiore integrazione, mentre cresce l'allarme per i rischi legati alla crisi. Il Parlamento europeo spinge per gli Eurobond, accordo sul programma di ricerca Horizon 2020, mentre la Commissione europea invia due avvertimenti all'Italia. L'Irlanda è andata ieri al voto per l'atteso referendum sul Fiscal Compact. A metà pomeriggio solo il 15-20% degli elettori si era recato alle urne. La conta dei voti comincerà oggi alle 9 con il risultato atteso in prima serata. Intanto la Lettonia ha ratificato il patto di stabilità fiscale. Il sì del Parlamento lettone è arrivato ieri a maggioranza qualificata. 67 i parlamentari che hanno approvato il patto, mentre 29 hanno votato contro. Uno si è astenuto. Prima del voto il ministro delle finanze Andris Vilks ha affermato che Riga ha già adottato molte delle misure incluse nel patto nell'ambito del suo piano per riprendersi dalla crisi. L'Europa stenta sulla crescita economica e i processi decisionali sono ancora lenti e farraginosi. Per questo serve un cambio di passo. Ad affermarlo il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo cui se fosse uno Stato federale l'area euro non avrebbe allarmi, ma una unione politica ancora non c'è. Sentiamo Visco. Se si guardasse all'area dell'euro come a un'entità unitaria, nella forma, ad esempio, di uno Stato federale, non emergerebbero allarmi sulla tenuta del suo impianto monetario e finanziario, ma una unione politica in Europa ancora non c'è. Questo rende, alla lunga, l'unione monetaria più difficile da sostenere. Sono necessari passi avanti concreti nella costruzione europea. Ricordando le parole di Tommaso Padoschioppa alla vigilia del changeover della lira all'euro, l'insidia è di credere che l'euro sia l'ultimo passo. Chi più fortemente volle la moneta unica, la volle perché aiutasse a compiere altri passi. E sull'intervento del governatore di Banca Italia ascoltiamo il commento di Fabio Tamburini, direttore di Radio 24. L'esordio del governatore Vincenzo Visco all'Assemblea annuale della Banca d'Italia è stata una relazione molto centrata sul sistema bancario, su quanto è stato fatto e su quanto occorre fare. Spicca però almeno una eccezione, più che giustificata dal momento drammatico dei mercati. Nel capitolo finale, denominato L'Europa e l'Italia, l'affermazione per quanto riguarda l'Europa è perentoria. Serve un cambio di passo che volti pagina rispetto a processi decisionali condizionati dal metodo intergovernativo e dal principio della unanimità, troppo lenti e farraginosi. La necessità, sempre secondo Visco, è chiara. Servono soprattutto manifestazioni convergenti della volontà irremovibile di preservare la moneta unica europea. Soltanto così il messaggio ai mercati e alla speculazione risulterà forte e convincente. Di più, Visco non ha aggiunto, ma chi ha orecchie per intendere, intenda. La Germania rompa gli indugi e capisca che oltre ai sacrifici serve lo sviluppo. In caso contrario saranno guai per tutti e proprio la Germania non farà eccezione, anzi finirà per avere difficoltà maggiori di altri paesi europei. All'Europa serve la crescita, il consolidamento fiscale e soprattutto chiarezza su come sarà il continente tra 10 anni. Parola di Mario Draghi, presidente della BCE, nel corso di un'audizione al Parlamento europeo. Per Draghi il sistema comunitario deve andare verso una unione bancaria, attraverso una garanzia dei depositi a livello continentale e una sorveglianza sulle banche più centralizzata. Sentiamo. Al di là dei tecnicismi, che in questo caso rappresentano anche la sostanza, perché si tratta di capire come il fondo salva stati possa essere utilizzato per salvare le banche, Mario Draghi non si lascia sfuggire l'occasione per dire, nemmeno troppo tra le righe, che i responsabili europei devono chiarire la loro visione sul futuro dell'euro, altrimenti la crisi sarà difficile superarla. Questo è il momento della politica, afferma il numero uno della BCE. Sarà il miglior contributo alla crescita e permetterà di ridurre la pressione sui titoli di Stato dei singoli paesi. Per rafforzare il concetto, Draghi tratteggia anche lo scenario. Siamo a un bivio, la moneta unica è a un bivio, come nel 92, e come allora è necessaria una visione per i prossimi 10 anni che solo i leader politici possono dare. La BCE non può sostituirsi ai governi nel fronteggiare la crisi, una crisi nella quale il debito di alcuni paesi non è più percepito come sostenibile. Più in concreto, Draghi ha detto che si sta studiando il modo di utilizzare il fondo salva stati permanente dell'Eurozona come strumento per ricapitalizzare direttamente le banche in difficoltà. E a questo proposito non ha mancato di fare un richiamo. Nella gestione di alcune emergenze si è sottovalutata l'importanza del problema e questo è il modo peggiore di fare le cose, che alla fine vengono fatte, ma a costi più alti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È una riforma di profonda struttura che è stata, come normale, accompagnata da dibattiti intensi e da diverse prese di posizione, ma il governo deve guardare anche alle valutazioni positive degli organismi imparziali quali Unione Europea, OCSE ed FMI. Così il premier Mario Monti, commentando l'ok del Senato al DDL Lavoro. Monti si è detto incoraggiato dalla Commissione Europea per il giudizio di mercoledì nelle raccomandazioni del semestre. Gli eurobond sono la risposta più adeguata alla crisi del debito sovrano. L'Europa deve affrontare senza ritardi la modifica dei trattati necessaria per la loro introduzione. La Commissione Giuridica dell'Europarlamento ha approvato a larghissima maggioranza il parere sull'introduzione di stability bonds. Il parere della IURI influirà sul lavoro che la Commissione Economica concluderà entro l'estate sul libro verde sugli eurobond. Le borse europee falliscono in rimbalzo e, complici i dati americani sotto le attese, chiudono poco sotto la parità, con Milano ai minimi degli ultimi 3 anni e a un passo dal minimo storico del 9 marzo 2009. Parigi a più 0,05%, Francoforte più 0,26%, mentre a Piazza Affari recupera il FTSE MIB grazie a un mini colpo di reni nel finale. Tra le blue chip milanesi la migliore Snam più 3,6%, che festeggia la separazione proprietaria da Eni più 1,7%, avvenuta attraverso la cessione del 29% a Cassa Depositi e Prestiti a prezzi superiori a quelli di mercato. Recuperano anche Biper più 3,3% e Impregilo più 2,5%, mentre continuano gli acquisti su Fiat Industrial più 2% dopo l'annuncio della fusione con la controllata CNH. Le note dolenti arrivano invece da Fiat, meno 3,2%, che crolla con tutta l'auto UE, e dalle utility, con le forti perdite di Enel Green Power, meno 4,2%, e A2A, meno 4,8%. Dopo le indicazioni poco incoraggianti sul mercato pubblicitario fornite dal presidente Fedele Confalonieri, Mediaset cede il 2,8% e aggiorna i minimi storici. Giù anche le costruzioni, con Buzzi, meno 2,3%, mentre le banche limitano i danni. Ciò condina da Radio Cor per Radio 24 e Sole 24 Ore. Il tragico terremoto obbliga l'Italia a uno sforzo ulteriore, doveroso ma enorme. Se l'Europa vuole finalmente esprimere concreta solidarietà al nostro paese, la Commissione pensi a una deroga all'obbligo di azzerare il deficit per il solo 2013. Con paletti precisi si può fare e sarebbe ben più che darci 200 o 300 milioni di aiuti. È quanto ha scritto su Facebook l'ex ministro degli esteri Franco Frattini, responsabile affari internazionali del PDL. I ministri europei della ricerca e dell'innovazione hanno raggiunto a Bruxelles un accordo sulla struttura generale del programma Horizon 2020, il prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea, che ha un budget di 80 miliardi di euro, ad annunciarlo il ministro danese Morten Østergaard. Un invito a Italia e Spagna a entrare a far parte del brevetto europeo è stato lanciato dal commissario agli affari economici Olli Rehn. Il vicepresidente della Commissione, in apertura del Brussels Economic Forum, ha affermato: «Abbiamo atteso per decenni il brevetto unificato, può essere una grande spinta all'avvio di imprese innovative. Il nuovo sistema, finalizzato con il meccanismo della cooperazione rafforzata, cui Roma e Madrid non hanno aderito, è bloccato da una disputa tra capitali per la sede della Corte. La Commissione Europea ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia, chiedendo che entro 2 mesi le autorità competenti mettano in regola le discariche del Lazio, in particolare quella di Malagrotta, con le norme comunitarie per il pretrattamento dei rifiuti prima del loro interramento. In caso contrario, la Commissione potrà adire alla Corte di Giustizia. E sempre la Commissione chiede all'Italia, con l'invio di un secondo avvertimento ufficiale, di conformare entro 2 mesi la legislazione nazionale alle ultime norme in materia di equipaggiamento marittimo introdotte dalla normativa europea. Anche qui il termine è di 2 mesi. Il presidente eletto serbo Tomislav Nikolic ha prestato giuramento ieri davanti al nuovo Parlamento, riunitosi nella seduta inaugurale dopo il voto del 6 maggio scorso. In un breve intervento di fronte ai deputati, Nikolic ha sottolineato di essere favorevole all'integrazione della Serbia nell'Unione Europea, senza tuttavia rinunciare al Kosovo. Questa unità rappresenta il futuro delle forze di sicurezza dell'Unione Europea. A riferirlo il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, il generale Claudio Graziano, parlando dell'unità composta dalla Brigata Alpina Giulia nella sua composizione di Multinational Land Force. Dopo parere positivo dell'Unione Europea, dalla 1 luglio sarà operativa come European Union Battle Group. Tabacco, droghe, alcol, tranquillanti, sedativi, ma perfino solventi e colle. Gli adolescenti europei fanno ormai largo uso di sostanze che inducono dipendenza e l'Italia si colloca tra i primi 10 paesi comunitari. E quanto emerge dalla ricerca europea ESPAD, che indaga sui comportamenti degli studenti di 15-16 anni, che nel 2011 ha coinvolto 36 paesi europei.